Stiamo per collegarci con la Gran Bretagna. Sì, Alessandro, allora è con noi in collegamento Andrea Pisauro, che è un ricercatore italiano, lavora a Oxford e ha anche lanciato assieme a dei britannici una petizione che si chiama Take a Break from Brexit, cioè prendiamoci una pausa visto che qui sta succedendo un casino. Allora Andrea, tu dirai ve l'avevo detto, perché in effetti i dati suggeriscono che sta succedendo un casino, perché Nigel Farage sta sfondando. Eppure hanno un ottimo risultato, nella tua Oxford addirittura hanno preso il 40%, quindi sembrerebbe che i tuoi ormai conterranei stiano votando proprio su Brexit sì o Brexit no, ma tu da lì cosa ci racconti? Sicuramente è così. Intanto buonasera a tutti, una lunga notte elettorale anche qui in Gran Bretagna. Non era scontato, perché le elezioni europee non si sarebbero dovute tenere se ci fosse stata la Brexit a marzo come era previsto. Quello che abbiamo cercato di fare con questa campagna era di estendere appunto le negoziazioni anche per poter votare alle elezioni europee, proprio perché pensavamo che fosse un'occasione per i cittadini di potersi esprimere su un processo che è stato estremamente confuso. E i risultati sono sicuramente interessanti, innanzitutto a partire da un aumento dell'affluenza che rimane bassa ma comunque più alta che 5 anni fa, e con un forte cambiamento della geografia del voto, soprattutto dalla parte progressista, diciamo. Io ho votato personalmente per il Labour Party, ma devo dire che la posizione ambigua di Corbyn non ha aiutato, ambigua sul tema della Brexit, e quindi abbiamo visto un voto molto forte a favore dei Lib Dem e dei Verdi, che però il dato secondo me interessante che va rilevato è che la maggioranza assoluta degli elettori che è andata a votare ha votato per partiti progressisti e diciamo tendenzialmente pro-Remain. È vero che il partito di Farage è andato molto bene, però i conservatori sono crollati in modo drammatico, passando addirittura scendendo sotto al 10% nel loro minimo storico assoluto da quando esistono. Ecco, quindi scusami Andrea, mi pareva di capire che tu lanciassi anche un messaggio di speranza da lì, che era che in qualche modo comunque l'ala progressista sta cercando di farsi sentire. Allora, il dato di fatto però è che intanto Theresa May si è tirata indietro e i rumors dicono che a sostituirla sarà magari Boris Johnson, che è un brexitaro per eccellenza. Allora, cosa bisogna aspettarsi? Cioè, cosa vi aspettate voi lì e poi di conseguenza anche noi, visto che i vostri europarlamentari poi ce li teniamo tutti, insomma, tu pensi che poi alla fine prevarrà la linea dura di un Boris Johnson che vuole un no deal e quindi uscirete dall'Europa, oppure questi segnali che state lanciando votando appunto i Lib Dem e gli europeisti potrebbero servire a fermare Brexit? Allora, ottime domande. Come sempre sulla Brexit è un terno all'otto capire cosa succederà tra 2 mesi, tra 3 mesi, tra 1 anno. Quello che mi sento dire in questo momento è che la situazione è ancora più polarizzata, se possibile, che 3 anni fa, però mi sembra di poter dire che uno shift verso il fronte europeista ci sia. Il problema vero sarà capire se Jeremy Corbyn riuscirà a interpretare questa nuova geografia elettorale e prenderà una posizione più chiaramente europeista. Il rischio molto concreto è che dal congresso del Partito Conservatore emerga una leadership più radicale, di destra, più orientata a una Brexit più dura, e quindi è molto probabile che prima del 31 ottobre, che è la prossima data diciamo finale del processo della Brexit, ci possa essere un progetto e una nuova leadership storica. Abbiamo dei problemi, cioè, Andrea, ti perdiamo un po', ci avevi detto che sei in treno, quindi forse sì, è per quello. Sì, dove... Adesso ti sentiamo. Sì. Ok. Va bene, quindi tu dicevi tutto si gioca in base a Corbyn, insomma, se trarrà le somme oppure no.